non ci vediamo, perché io non le toglievo piedi, perché c'ha 6 figli quello, così è. No, ne ha 4, ne ha. Allora, rosso, bianco, cocco e nero. Rosso, bianco, calza e nero. Cioè, mi ricordo che due devono andare assieme, ma non mi ricordo quali sono, però. Guarda che sul sito del coso di Antonio ha messo un sito lì nell'associazione GB Nicola Tesla, dove ci sono tutte le connessioni dei microfoni. Vediamo un po', dai. Vediamo un po', no, quello là, questi giorni rimetto l'antenna dov'era. Vedo un attimino a rimetterla dov'era. Usavo molto Giorgino, problemi non ce l'aveva, e da quando l'ho spostata, che l'ho messa dove adesso. Ma perché hai fatto questo lavoro, non capite? Se non va bene non vera, chi ne hai bugata? Ne l'ho bugata perché non c'avevo il coraggio, capito? Mi mancava un tirante verso il ghiero, mi mancava un tirante, che non so spazio. Ma ho già dei frutti, ma ho già dei frutti. Quando il tubo è buono, cosa le fa? Io lo sto, vabbè, anche se sono più in alto, però sicuramente ho meno tubo, quindi ho più in sicurezza, sicuramente l'antenna, ma... Però, non so, se metti la dovvera e a tutti i denti dell'ancoraggio, metti quelli che ci stanno e... adesso tornano un po' indietro memorizzando, è anche più alta l'antenna, mi sembra che era circa un metro più alta, e quindi sto pensando anche quello io. Se avessi più bassa, il problema è quello, devi mettere la convera, se lo fai in una giornata che sono libero scendo anch'io. Però mi metto a lavorare l'antenna. No, vai un attimo a farlo, dai. Un attimino, devo passare a prendere un tubo da 2 metri da 40, che mi serve da infilarlo dentro il 50 per essere più tranquillo. La cambio, la rimetto dov'era, perché dov'era problemi non ne avevo, perché era più alta. Tutto lì. Va bene, dai. Ah, ti lascio che devo ultimare delle cose, se coincide a più tardi. E io vado a mangiare, adesso saluta Domenico, poi vado a mangiare e sono qua in radio. Dove? Domenico non c'è più. Dai, ti saluto, ciao, ci sentiamo dopo se coincide, vado a mangiare un boccone e poi sono qua. Attento Domenico. Attento Domenico. Domenico attento. Non sei attento. Ciao, passo e chiudo, ci sentiamo dopo. Ciao Fabrizio, se stai ascoltando. com'è? Bene, va benissimo. Va bene? Ok, ciao Gianni, avanti. Lei ha attaccato alla LAN 41? Hai ripreso, ma hai spostato pure l'antenna? Che problema ti dà? Problema. Da me niente, nessun problema. Sono gli altri, se non sono risolto. Allucinante, va. Io adesso qualche cosa so cosa vuol dire. A me si affacciavano alla finestra, dentro mi illuminavano la macchina perché stavo modulando con la pila. Vabbè, dai, ok. Sto provando questo mic a provare. Quindi Claudio, com'è? Io, va bene, chiudilo. Sure. giorno di punizione, il martedì prossimo è trasferito, non c'è più con noi. Poi io dico la verità, mi sto anche annoiando perché i truppi sono mi sto anche annoiando, guarda, dico la verità. Sono abituato a lavorare di pomeriggio, per me è una noia totale, mi faccio il gomito, beh, io già, vabbè, arrivo a casa a 2:30, a 3:15, dipende, 2:30, 2, dipende da quello che sto facendo, non è orario. Proprio la sera sono passato, ero rinchiuso a casa, capito? Se c'era la possibilità di, infatti quando ci rientro, adesso domani ci rientro ad esempio, e ci vado volentieri perché smetto un po' la serata, capito? Ma adesso che fanno belle giornate, Piro, la notte mi dici, perché così, ti addormenti, dopo che ti svegli non sai più cosa fare. Questa cosa? Cosa? Tutta la sera, no, nel radio, tutta la sera, inventando, facendo. Non so più cosa fare, volevo spostare, cambiare un po' il sistema delle radio, ma poi sono passato dietro, ci metto un malloppo di fili, ha detto ma vai, non è male, no, ci vuole 2 ore solo a attaccare i fili. E io oggi sono andato e mi sono fatto gonfiare le ruote della moto, ma non erano sgonfie quasi nulla. È andata bene, non si sono sgonfiate quasi nulla. Io va bene, se non si sgonfia non va bene. La batteria l'avevi staccata? No, già, la batteria l'avevi staccata. No, io la mettevo in moto ogni settimana. Quando mettevo in moto la macchina, mettevo in moto anche la moto. Una volta alla settimana la mettevo in moto, la facevo girare un po'. Qualche volta l'ho presa, ho fatto qualche giro nel cortile e poi la rimettevo a posto. E quindi insomma non hai avuto problemi là? No, no, si è tenuta a carica e poi la batteria è nuova, l'ho cambiata l'anno scorso. E allora va bene, l'ho cambiata, magari non voleva manco cambiata, ma una volta che si scarica così mi comincia a dare problemi, poi la cambio direttamente, che costa 125 euro la batteria di moto in quelle piccole. Me lo immagino. Se non mi sbaglio mi ha detto che l'ha ordinata per la moto da strada, su internet, l'ha pagata la metà di quella che la vende la concessionaria. Addirittura? Esatto. Scusa. Preco su canale 10. Sì, buonasera Claudio. Buonasera. Allora, sempre qua siamo, sempre facendo, siamo. Sto ascoltando, stavo, dai, però sto facendo un paio di cose, stavo ascoltando. Ascolta. Tornato. Dipende. E mi sto facendo cosa Marco, E ti stavo dicendo, il tempo è che stasera ho fatto un giro, visto che era uggiosa la giornata, ci ho aggiunto la buccia e dopo è tornato il sole. Eia. Vabbè, c'è la prova. No, ho fatto giusto una prova così, no, adesso non ne ho voglia, domani mi avvento se ho un po' di tempo e cosa. No, adesso la lavo con 48, vai. Faccio bene, mi do la 48, che microfono è quello? Questo è la Saletta. Faccio anche io Saletta, va molto bene, vabbè io uso il pane pietre. Mi suppresidere che con la 48, però anche Saletta funziona bene, funziona benissimo. Avanti, bambolino, riprendi, vedi se ti sente Sandro. No, è Sandro in Bucciondorra, mi senti? Come al solito, Sandro non ti sente perché c'è quell'M. Hai Ricorrere, vedi, c'hai il lato positivo e il lato negativo. Te lo so, anche io lo uso pochissimo perché nella radio io lo uso normale col KMP3, poi quando apro l'ecco il microfono normale, però c'è un QRM allucinante, è una radio da macchina, non lo usavo. Eia, Gianni Chiaramonti, buonasera, avanti. Magari lo potessi usare io, magari. Sì, ma Gianni, cosa usi? Gruppo elettrogeno per l'amplificatore? Dico, se no ti arriva il conto. Ti arriva di 7.000 euro, non penso che paghi così. No, già, ma più non erano, non si potevano capire bene le parole, capito? Si sentiva che parlavi, ma non riuscivi a scandire bene le parole. Che è tutta fischia? Che è? Ma stavo fischiando? Antonio, no, da te sei. Che se non ti manco la mia chiamare, sempre che non sai qua, perché E siccome quando in via Rocafella ci ha avuto lo stesso segnale, sono venuto in quarto, pensavo che non entravi più tu. Come mai li affischi, Fabio? Il microfono forse sta pubblicando la radio. Non se ne va bene. Ciao Fabio, dimmi cosa mi stavi dicendo. No, stavo chiedendomi che mi chiamavo prima, perché stai usando. Perché quando stai a fare un video, quando c'è sta cosa, non ti capisco. Kilowatt c'è un... E un lineare come il mio che ha 2001 lo c'è un kilowatt. C'è un lineare, ho capito, allora. C'è un lineare come il mio, 2001 c'era, 2002. C'era Monti. Ho detto cosa c'è, 2001 o 2002? Io ho 2001, tu cosa c'è, 2002? Ma quello a valvola la transistor. Tu c'è quella transistor e c'è quella valvola. Quindi non cambia assolutamente niente, i volte sono gli stessi, solo che io a me piacciono le valvole, perché qui vale tutta la potenza della radio, mentre la transistor è, perlomeno io la transistor li uso il 2001 a 2002, la transistor lo brucio subito. Quella era 48, come abbiamo già bruciato ieri l'amplificatore che ha portato Massimiliano, perché il mio era 48, è modificato, c'è cioè le picche di modulazione da 2 watt a 20 watt, capito? È chiuso, da 2 watt tutto chiuso a 20 watt modulati, mentre invece se lo apro tutto c'è da 2 watt a 40 watt, e quindi la transistor non va bene, mentre il valvolo invece lo porta benissimo, capito? Questo è perché io uso mia amplificatore a valvola, la transistor non ne posso usare, tranne che il DV131 con la KB23, allora sì. E c'è un duo e due, c'è un altro, non lo cambio per due e no, e allora va bene, 2013 la versione nuova, tu va bene, ma no, va bene, non sto scherzando. Mi ho disintegrato di eliminare la transistor con un 48, tranne quello che avevo in macchina, perché aveva era MOSFET e quindi aveva un finale di ricezione molto alto, e allora il piccolo di modulazione lo teneva bene, ma questi piccolini, capito, non li posso usare, e allora uso quello valvolare, va bene. Ok, già ne riprendi lo più. KK. Tutti con la bottenza, senti, gloria. Dunque, una prima cosa, che anche con 2 watt si può parlare tranquillamente anche con full, perché io ho provato col Garage, gli ho messo 2 watt e mi sentivano lo stesso, anche a produttore. Io sono 240, ho 10 watt, 10 riportante e 30 modulati, no? Questa radio è così. Ma nel 48 io a volte lo uso senza niente, non lo uso sempre con lineare, no? C'ha dei picchi di modulazione fortissimi, quindi non c'è bisogno. Se poi c'è gente fuori o sono sul 45, allora devo attacco. Se no non mi interessa. Poi va bene così, già mi sento lo stesso. Il problema è che Gianni di Chiaramonte c'ha una zona un po' particolare, capito? Perlomeno per me, poi vedi, a portatore si arriva anche con 3 watt. Si sentono con Sandro con 4 watt e con 3 watt. Qua io non riesco a... Se non c'è QRM già lo sento. In questi giorni col QRM che c'è è un casino. Ma poi in macchina te l'avevi messo al parito? Sì, l'ho messo in macchina e da lasciare i pezzi a casa compì un certo rumore, una bomba arrivisce da Racchino. Ma non lo posso ottenere, già adesso mi cambiano di nuovo la macchina perché devono portare la carrozzeria che me l'hanno toccata. Mi danno un'altra macchina, quindi non fa, per me non fa per la radio in macchina, capito? Se l'avrei messa fissa, avrei bucato, vicino a tutti. Non mi dicono niente. Ma non la posso mettere fissa perché fine settimana devo cambiare con il mio collega. Poi capita che magari io sono in un'altra zona, quindi devo dare la macchina ad un altro. È un casino, non posso stare smonta, rimonta, smonta, rimonta. Ti metti un attacco volante. Ma se magnifica un attacco volante così, cosa vuoi fare? Accendi i sigari, fai. L'attacco che c'è da accendi i sigari è nel fiorino, è un bel grosso, mi pare che sia da 40 ampere. È un bel, ne ha due, uno per l'accendi i sigari, uno vuoto, lo metti l'attacco tuo, c'è la spinetta direttamente già pronta. Non è quello il problema, è che mi scorcia, capito? È una rottura di scatto, comunque l'ho provato, già va bene. Non c'è problema, non c'è problema. Avanti, Fabri, riprendi tu, alza a girare il tuo bombolo. Si parlava dove c'hai col baracchino, che guarda perché un po' notificato. compressione si sente, però non è esagerata, dai. Oh, Claudio? Dimmi. Ma, no, pensavo che stava parlando qualcuno. No, non lo so. Saluto lo stesso cordialmente, se non mi sente fatemi da ponte e mandate i saluti da parte mia. Pierucci, l'hai sentito già nello Pierrum? Va bene, allora riprendi tu, con la speranza che mi ascolti. E adesso ne ho 10, ho aumentato appena. E questi sono solo i fatti del baracchino. Sono a modulati 30 watt, 20 watt, ho messo a 10 il portante multa, 20 watt. Eccolo qua, va bene, dai, lasciamo così, non mi fatto niente, già va bene. L'importante è che mi ascoltate. Avanti, bombo, lo riprendi. Capo, quando vedi ci sale tutto, ci sale lo smitter. Cioè, proprio, già si sente la potenza qua. Allora, ho notato una cosa, perché sembra che quei paracchini riceva meglio. Non riesco a capire. Non lo so. No, vabbè, questo... Anche chiuso, senza eco, voltare più 3 agli stessi watt che è aperto, sempre da 2 a 40 modulati, capito? Solo che quando apro l'eco spinge di più, mentre così il picco di modulazione è uguale, ma vabbè, sto usando il tanner anziché il microfono normale con l'eco, capito? Tutto qua. Va bene. Avanti, Fabri, riprendi. Ho partito, allora dopo passa sei problemi, ci sono tutti quanti, ho chiesto per quei 10-12 modulati, qualcuno aveva il suo confuso, però tutto il resto. Con quelli fuori che ho incontrato con l'armato, ho fatto tutto l'altro, mi sono visto un tempo da salvato per farmi sentire se sei di fuori senza problemi. Ha detto. Sì, forse per cui l'anno qua, ogni tanto si trova qualcosa di interessante, lo sai. Che cosa? Per cui tutto mi trova qualcosa di interessante, se lo scrivi magari, qualcosa di interessante lo trovi sempre qua, ogni tanto, cercando, cercando. Già lo so, sì. Già lo so. Te l'ho detto, io c'ho questo adesso, c'ho l'altro, ma non c'ho più posto. Ne hanno portato un altro oggi, uno standard base VHF marino grande, un po' già messo a posto, però non so dove metterlo. Adesso domani farò un po' di spazio, vediamo un po', ne ho un altro dentro l'armadio anche, devo, cazzo, madonna santa, domani sera ci vado, però intanto voglio scendere a sorso da coso, passo salendo e mi ritiro anche il sommer, che minchia, cazzo, mi ero anche dimenticato di quello. Dove me le metto todos queste radio, todos, dai, chi è che vuole radio, venite a prendervele per Pasqua. Avendo io domani. Va bene, va bene. D'accordo, una a te, Fabri, a te, anche te ne serve, no? A me una sola me ne serve, ce lo sai quale. Tu quello là che ci hai vedato dove vieni. E ha comprato il suo. Che la monti ti serve qualche radio base? A te scegli, dai, nome, Inuit, Zodiac, Console Primo, SBE, Lafayette, LMS 200, Sears, SSB 50, il DAC non te lo nomino perché c'è già Leo Pierrotti che quello è suo, poi altro Sommercamp, insomma, Lafayette, HB 23, no, chissà, no, chissà, mi regala da Gigino o Sidotto. A me andava per lo Zodiac. Questo Zodiac che bello, nuovo, nuovo, ma a me me lo ripeto solo il primo, anche il Sommer, che è l'altro che devo ritirare da Gio Maria, che quello è molto bello, è simile a questo, al console primo, però il console primo non è più grande, ma anche quello è molto bello. Per carità di Dios, madre di Dios. Una persona che conosco io c'ha lo Zodiac, però è di quelli piccolari, come si dice, c'ha le cose che mettono a LED, non è che si sta a LED, è di quelli vecchiotti, però funziona molto bene. E già non so, funziona molto bene, funziona benissimo, non molto bene, guarda, alla grande funziona. Quello giro funzionava grande, tutto messo a posto, pulito, fatto, ma è tutto originale, anche il colore originale, capito? Funziona col tame più 3, non me la metto, no, tame più 2, no, tame più 3, col tame più 3, scorsa letta funziona, ma va bene, avanti, doppio non ripeti, un secondo va bene. Ma si trova il modo di fare funzionare, basta vedere oggi. Qui basta uno, dai, te l'ho detto, uno, vai avanti, di fare il posto, togliere tutti i ripiani per fare il posto perché è molto grande, ma ci starebbe lo stesso. Sì, già ci sta, già ci sta, già lo fai tu il posto, ma ragazzi. Ci lasci di quello è il gas, boh. Sì, con quelli due ci è arrivato, non è grande. Allora, ho scoperto l'altro giorno, poi vado bene, ho scoperto l'altro giorno la modifica che c'è questa radio. Praticamente con lo squelce entra e esce, no? Fuori e dentro, capite? Vedi, così e così. In fuori, con lo squelce, allora parte, c'ha 120 canali sopra, oltre il 40, e 120 canali sotto, oltre il canale 1. Allucinate. DAC. Allora. Ecco, che volte ho detto che lui non lo voleva perché c'aveva la modifica che lui voleva originale. E infatti ci aveva tenuto l'altro. Mi ricordo che aveva detto questa frase. Ma io non è che lo sapevo, c'era questo, non si vede niente, non c'è nessun pulsante aggiuntivo. ok, lo squelce funziona normalmente, normalmente, solo che entra e esce fuori, capito? C'è il potenziometro di quelli gruppi che escono in fuori, non ti è mai capitato a vedere la radio che tiri ed esce in fuori, così, ammassi quello e vai, 120 sopra e 120 sotto. Eh sì sì, ho capito, probabilmente gli hanno fatto la modifica loro, gli hanno messo doppio e gli hanno fatto, gli hanno inserito i canali. Buono, almeno non c'è i soliti 40 cani come si dice. No, no, no, no, ma va a punta di manicomio, veramente, veramente, vabbè, vedi comunque è quello. Lo accendo perché è bello vederlo acceso, tutti e quattro strumenti illuminati, adesso tutto, tutte le lampadine al suo posto, tutto bello pulito, ordinato. Se no, guarda, io uso sempre l'ANA 48 con l'altarne più 3 oppure la faietta HB23 con l'altarne più 3, gli altri sono sempre tutti accesi perché li accendo, sono tutte sotto tensione, ma ne uso uno ogni tanto, ne uso uno ogni tanto, capito? Niente, Gianni di Chiaramonte, riprendi un secondo il bianco per me che vado bene. Ma Gianni, ci sentiamo, buon QRT, dai, alle prossimine, avanti, avanti. Che deve salutare. Ciao Gianni di Chiaramonte, ben sentito alle prossimine, noi quando siamo qua sempre ci fa piacere. Ciao ciao Gianni, allora Fabio, come andiamo? Sì, andiamo bene, un po' qua. Con un po' che stio e poi devo andare a lavorare, non a giugare, volevo andare in pensione, però sono troppo giovane, mi hanno detto, e se vado in pensione me ne danno poca, praticamente niente. La paghiamo, che poi quando sei in pensione ti annulli. Io, c'è tante di quelle cose da fare fuori dalla... Nel lavoro che tu non te lo immagini, che anche una bella, c'è poco da fare che viene a bambi, però cacchio, c'è voglio dire, alla fine ho sempre fatto tanto, ma a parte quello lì, andavo facessi quello solo di Ubi, mi servirebbero 48 ore, mi immaginate un po' se mi annoierei io. E beh, ti piace passare in piena ragione. Ma l'hobby della moto, sempre portando avanti lo stai, delle macchine d'epoca. Infatti oggi sono stanco per quello, perché era la motorizzazione per colorare un mezzo storico che l'ho arraviato l'ufficio e l'ho rimesso in strada, anzi il libretto nell'altra macchina l'ho dimenticato, quindi ho fatto tutto e avevo il collaudo stamane e non te ne dico niente, cacchio, per carità, alle 6 mi sono pulitata alle 11 e ho dormito un pochettino perché tanto devo lavorare nuovamente dopo la notte. Cacchio, prendere la moto, andare lì, fare la fila, documenti, discutere, fare... Ti dico che non è una cosa bella, eh. Che macchina hai preso? Che macchina è questa storia? Ah, scusa un attimo. Una moto devo collaudare. La macchina ce l'ho il 12 di questo mese in collaudo. Ah, e che moto hai preso? Una Vespa 150, quella che devo omologare, che era da fare, metterla su strada. E l'hai restaurata già? Sì, bella bella, finita, come il primo giorno. E beh, quando andiamo a farci un giro? E gente ci vola per muovere tutte quelle moto, Sì, ora le facciamo muovere. Oh Fabri, guarda che c'è raduno Piazza dei Segni fra due domeniche. Una la prendi tu, una la prendo io, una Gianni e andiamo. Il casco ce l'ho, mi ha avanzato uno di quei vasini vecchi, me lo leggo e andiamo. Ehi, ma sai quanto sono che non ci vado io alle, a quelle cavolo di come si chiama, di motoraduno. Ogni mi piace la sera, la verità, ogni puntata un paio di volte, ma boh, non lo so, mi annoia. Gianni, diamo la lampetta, tutti i bidi la Vespa, io bidi lo gosso, lo garifone, ma ti chiama, guido dei tedeschi. No, il Guzzi. Il Guzzi, cazzo, ma quale c'è? Quello che c'ha il volano tipo, la fettatrice. E quello con la fettatrice, c'è cioè il 250. Ah, bello, ma c'ha le marce a mano, oppure c'ha quelle a fianco al volano le marce? Io a fianco dall'altra parte, c'ha le marce il freno attacco. Mazza, allucinante, Riccardo, l'hai mai vista quella motorina? Che invece era quella della mano blu, la marce c'era tipo quella della mano. Sì, già l'ho vista, sì, erano nella garage da lui, quando abbiamo fatto la radio. E prima di fare la radio mi ho controllato tutte le moto, esce Maria Gara. Era passione, passione. Ma tu le venderesti anche, Fabio, queste moto qua? Oppure le tieni proprio gelosamente perché le fatti tu? No, non le vuoi sapere di me? No, tu un figlio lo venderesti? No. E allora ti rispondo nella stessa maniera. Anche se ogni tanto qualche pezzo bisogna darlo via, perché poi ne ho una Vespa che è bellissima, non bella di più, però non uso mai. Fatta 2 anni, avrà fatto 100 km un peccato. E quindi, però poi a fine tempo qui, però ve la fai. E vabbè, ho lì, è che non c'ho più spazio, adesso devo comprare un altro garage, sto cercando come lo trovo, per metterci un po' di moto, almeno le moto, sono incasinato con lo spazio, questi mezzi portano ci vuole spazio, capito? Se no è un casino. O voi Fabrico le via Pascoli? La Pascoli è un po' fuffa, tanto le vuole. Tanto le voglio, ma mettere le moto se le voglio non lo vendo, cazzo io dove la metto poi la mia. Vendi, per una moto ne vale la pena. Cos'è grande quello? 70 metri quadri. È già poco bello, mi metterei anche il letto per dormire io lì. C'è acqua, luce, lavandino, c'è tutto. 70 metri quadri, tu immagina ci stava il Volvo, la Matiz di mia moglie e la Smart di Ladia. Poi c'era la moto mia, quella di Franco e quella del mio vicino, tutte e tre, e c'era ancora altro spazio. Oh, ciao Gennaro, ben sentito, adesso ti lancio a Claudio che ti voleva salutare, avanti qua. Ehi, ciao Gennaro, buonasera, ben ascoltato, non so se mi ascolti, perché sono col baracchino piccolino, poca potenza. Vediamo se ascolti il genere doppio rumo, vai Gianni per Gennaro di Bonova. Ciao Gennaro, non so se tu mi stai ascoltando, io ti ascolto tranquillamente perché non c'è correme, buonasera, ben sentito, avanti. Ma dai, è interessante ascoltarci. Anch'io non ti ascolto molto forte, però ti capisco bene, dai, non c'è problema. Le parole sono quelle scandite e si capisce cosa dici. Avanti, Fabrizio. Sì, no, qua gli arriva bene in Gennaro, sempre bene, sarà che siamo favorevoli con Claudio, ma arriva sempre bene, comunque caraglio, va bene, cacchio, non senta niente sotto, segnali fortissimi, la radio buona, come li vuoi dire, altro di pulire, va bene Gennaro, va bene, avanti Gennaro. L'uomo volevo sentire a tutti i costi, cazzo. Non ti preoccupare Gennaro, anche mia moglie non vuole, no, non ti preoccupare. Ci teniamo alle radio che abbiamo, non ti preoccupare. Quando vengo lì a Bonova mi offri un caffè, va bene? Gennaro, ragazzi, la cerca giù, mi hai capito che ti ho detto, un caffè mi offri. Grazie. Thank you. conosciamo e quindi scherzo, è un colore particolare degli occhi che si assomiglia un po' al cassonetto, capito? Ma niente di particolare, si scherza, anche io ho gli occhi un po' più, cioè gli occhiali però più, un po' più scuri dei suoi e si assomigliano a una massata di merda, capito? Porta ci ha preso quel clavo. Ciao Gennaro, buonasera, appena ascoltato, vai. Riesco ad ascoltare la stasera. diciamo che ho cambiato situazione, riesco ad ascoltarti meglio. Ascolta, con questo piccolo tra piccolo, come mi ascolti? È forte la mia modulazione, così deve uscire il tuo. suo normale, c'è poco da cambiare lì, non è un HF che devi toccare, rifare, non c'è niente da toccare, tiri su un Michigan e le metti un MB più 4 o un MB più 5. Quindi microfono da 50 euro, vai alla Fusaro, te lo compri e poi me lo fai risentire e io ti dico che quella radio esce uguale a questa, né più né meno. Quando io non voglio risolutore che inizio a prepararmi. Allora, ciao, che chiaramente ciao a tutti, buon proseguimento di questo. Ciao Fabri, ci sentiamo un trabacco, dai. Ciao Fabri, dai, poi quando si è a riposo un attimo ci organizziamo una uscita, dai. Ciao, buon lavoro, ci sentiamo domani. Ciao Fabri, buon lavoro anche da parte mia. Ciao Fabrizio, tutte le prossime. Aspetta che voglio far sentire Gianni Chiaravolti. Guarda, questo è un normalissimo 48 con 5 watt. Ecco, per dirti che questo che sto usando adesso è un normale 48 con 5 watt. Non le dà nemmeno 5. Questa è la Midland, Midland 48 BX. Io ho il Midland, Aran 48 e voi 48S, capito? Contarle più tre da tavolo, quello deve capire Gianni è che un baracchino come l'Aran 48 col microfono normale, se non è modificato, non serve a niente, ok? Non serve a niente, deve mettere per forza un microfono da tavolo Gianni. Questo è quello che ti ho già detto l'altra volta. Perché il tuo segnale qua è 9, ma radio non ne hai, quella è 48, radio non ne ha. Magava, Gianni, adesso più forte mi senti. Cos'è che non c'è? Gianni, non serve a niente, capito? Lo so, ma tu lo sai che non avete capito ancora che Gianni vuole sperimentare lui fino a casa di un gabbo e deve sperimentare lui le cose. Lasciatelo fare, se vuoi che ti dica, lui non è fatto lo suo, lui vuole sperimentare di persona, lasciateglielo fare. Ci spenderà tre volte più di soldi, però lasciateglielo fare, gli abbiamo dato tutti dei consigli e diciamo che lui ascolta e poi fa come vuole lui, cosa deve fare. Se ma lui c'è un difetto che quando dici che non lo senti si offende, capito? Perché io non avevo già capito, ma si offende, se io ti dico che non ti sento, cazzo sono mezz'ora, quando parli tu devo abbassare il volume, quando parla lui devo sollevare, quando parla Gennaro devo mettere a zero, e cosa cazzo devo fare io? Se tu parli con noi, metti in condizione a noi di ascoltarti come cristiani, non posso stare togliendomi le cuffie e mettendomele, togliendomi le cuffie e mettendomele, se no mando tutto a fanculo, prego la mano e vado a vedere la televisione. Dai. Poi va, si mette a parlare con Pinocchetto da solo, capito? Perché è l'unico che può parlare con Pinocchetto e noi rimaniamo lì ad ascoltare. Ma cazzo mi sono rotto le palle. Gennaro, le prendi. dice più più, ma il segnale c'è di Gianni Doppio Rume, Gianna, sì. Gianna. Ci arrivo, ma Urbia città io no. non lo sento, non ci arrivo. Io sono sincero, no, non lo sento Urbia io da qua, per niente, per niente. Se ho sentito Domenico la notte verso le 11:30, però era già nella salita di Monti, capito? A me Domenico mi ha sentito proprio da Urbia dal porto. A me solo sentiva, mi sentiva che parlavo con gli altri, ma era una roba di propagazione, deve essere. Yeah. lui è già a metà strada, quindi sente bene a lui e a loro. Ma non è questione di radio, no, perché io anche se attacco la 48 con nessuno ce l'avevo lo stesso. È questione di zona, capito? Bomba e Perugia va bene perché è metà strada, ma noi siamo a 100 km da Bomba, quindi non è che possiamo fare miracoli, no? Anche se siamo in zone buone, non arriviamo e basta, e così vi va. Lui è perché c'è la zona, non la radio, la zona. È in zona buona, poi Bonova è favorevole per Orbia davanti, non ha ostacoli, mentre noi invece dobbiamo superare tutti gli ostacoli, capito? Infatti, i fattori sono tanti, può dipendere dalla radio, può dipendere dalla zona, può dipendere dall'antenna, può dipendere da tante cose, però una delle cose principali è e se non ci sono ostacoli, se non ci sono ostacoli la radio arriva tranquillamente, le onde passano dritte, dove si rimbalza c'è tornare indietro. È certo che sì, e si conferma. Sandro, Tigre. Tigre è chiuso, non è certo che è salutato. No, stavo parlando di Gennaro, non ci ho compreso nulla. Ho salutato Sandro, l'ho risposto io. Ok, ok. Avanti, Bonova, riprendi. Più alto di, se tu vai a Santa Vittoria ricevi il mondo, Perché? Perché praticamente tu sei più alto di tutti e l'onda non va a disperdersi, mentre invece quando io sono in alto e l'altro corrispondente in basso, l'onda va a disperdersi. Ecco perché Porto Torres e Conurbia possono sentirsi. La piana degli punti, che è a livello praticamente del mare, con Olbia si sente benissimo, però uno che è in alto ha l'handicap di queste cose. Io quando ero in via Pascoli ricevevo tutto molto, ma molto meglio, soprattutto in VHF e in UHF, rispetto a qua che sono molto più alto. KK. Vabbè, non tutte le zone sono favorevoli, ma comunque la maggior parte dei punti non arrivi in massa, non arrivi in alto, sempre in massa che ci arrivi. Grazie. Registrato il break, ma infatti già te ne affutti, basta arrivare. Avanti break. Papa, buonasera, ciao Claudio, ciao Gianni, sei un tuo, forse se c'è altra gente, dai, ripeti già. Ciao Fabio, mi hai sentito? Cos'è? Mi stavo parlando con un amico di Morra, con Gennaro, poi ci sono io. Fabrizio, che dovrebbe essere andato a prepararsi per andare al lavoro, sarà già in cammino. Lo abbiamo ricercato, la vaga di macchina ce l'aveva. E cosa? Marco, Fabrizio. No, l'ha tolto dalla macchina, ciao Fabri, buonasera. L'ha tolto Fabrizio Chirigato, l'ha tolto la radio dalla macchina. Paga, ma capito. Allora, va bene, prendi Fabrizio, va per chi vuoi. C'era anche il di Chiaramonti, ma penso che abbia chiuso. Allora, Fabrizio, beh, allora. Poi niente in particolare, solita cosa, capito? Comunque poi passando come detto tutto quello che ha detto Claudio ha detto le cose giuste. Tu adesso ti faccio un esempio. Allora, Falcone, dove è parlato a lui, era basso la sua palazzina, chiamava così. Eppure dove era Falcone, quella zona lì schiacciava molta gente, perché anni addietro, quando io ero in viaggio a Barcellona, quando Paletto parlava, io dentro Barcellona, spostandoci con il taxi, il taxi del baracchino, Paletto mi ricordo sempre, lui sull'11 arrivava dentro Barcellona alle 9:20 e io gli altri corrispondenti non li sentivo, di cui personaggi che erano in alto, più o meno zona di Claudio, non li sentivo. A lui arrivava 9:20, per dire come va a finire la pianura rispetto all'altezza. Ma infatti è così, ma tu prendi a Fabrizio Chirigato, Gian. Fabrizio è sotto di me, ma molto più basso perché nella zona di via Napoli. E c'ha praticamente la stessa altezza di lavoro per la tua zona. Hai visto quanto me ne prende a me di segnale? Eppure in tutte le altre zone arrivo meglio di lui. Perché? Perché proprio la radiazione dell'antenna lavorando in piano, allo stesso piano, allo stesso livello dell'altro corrispondente non c'è Cristo. Il segnale è sempre molto più alto rispetto a chi sta in alto e deve prendere l'altro corrispondente in basso. Va a cadere il segnale, capito? Noi lo chiamiamo segnale a caduta. Mentre quando un segnale è diretto, come quello di Fabrizio, verso la tua zona, verso il monte, verso Luca, verso di te, verso Antonio Bombo, arriva molto più forte di me, capito? Cava, cava. Vabbè. Comunque io ogni tanto mi rifletto andare a Usi, con un tenino piccolo ho fatto... Non mi che c'è un tenino Usi piccolo, ho parlato di tutti i paesi di Torri di Sassa, di... anche Lontanucci. No, ma mangia... Purtroppo le radiazioni dell'antenna è una cosa molto, molto delicata. Ma è saputo questo, capito, che le zone di mare in pianura rispetto a quelle alte o i paesi come Porto Torres, ma già senza andare a Porto Torres, già la piana degli punti rispetto a questa zona per diverse zone è molto più favorevole, perché la radiazione delle lobe radiazione dell'antenna stessa fa sì che sia diretto, capito? Hai lo stesso livello, mentre quando uno trasmette dall'alto riceve, perché riceve, trasmette, non c'è problema. Però il lobo radiazione radiazione è percaduta e quindi è molto ma molto più dispersivo. Tutto lì. Gennaro, questa è matematica e questa è geografia di radio, vero, vero, geografia di radio. Schemi geografici. Era lui, era Walter che arrivava più forte, sempre lui. No, no, no. Tu a so qualche giro di boa. Guarda, io quando sono venuto qua nel 1983, a Giucuto non ci sono tutte e tre, che ancora se lo ricordo, e io non avevo neanche l'antenna grande, avevo il TL922, sì, però non avevo l'antenna alla Mantova, avevo un altro tipo di antenna che teneva un po' di watt. E a Villa Cidra allora arrivavano molto, ma molto, molto, molto scarsi, ma molto scarsi, capito? Mentre io mi aiutavo con la potenza e a Francesco Briscolone arrivavo quante loro, loro non arrivavano quante me nella zona del Campidano. Francesco Briscolone in Barisi, sì. C'aveva il giumbo Aristocrat, che poi ha regalato prima di morire a Bartolomeo Chisielle, capito? Quelle erano forze, quelle erano potenze però, perché si lavorava solo in potenza. Io andavo molto bene nella zona di Campidano, loro andavano molto bene nella zona del mare, capito? Però l'unico che a me mi dava mattana nelle zone del Campidano era solo Vittorio, gli altri non si discuteva neanche. E io credo che c'è sempre una buona zona, sempre una buona zona, dei gali tutti sparavano bene, e tuttora è così. E Vittorio ha la zona alta lo stesso, per me buona anche quella, ma è senza l'antenne adesso. Quindi l'antenne ce l'ha, ma è tragengo, se non è piazza, capito? Io soldi non ne voglio buttare, perché non è, ho deciso così, non me ne ha fotti nulla, perché a me dell'HF non mi interessa, perché sono sicuro che se io ci butto 5.000 euro a montare la direttiva 10, 15, 20, col kit dei 40, qualcuno la qua su piange, la direttiva però, non parliamo di antenne finali, la direttiva, capito? No, se si gioca, si gioca, con le direttive non c'è da scherzare. Ma per fare il lavoro che devo fare io, qui ci voglio almeno dai 5 ai 6 mila euro. E non ho nessuna voglia di buttarceli, capito? A chi non me ne ha fatti nulla. Non mi interessa niente, perché io solo con l'antenna che ho adesso, che fa 10, 15, 20 e 40, con 200 watt, con 200 watt, arrivo qualche segnale in meno di qualcuno che ne usa 1000, 2000 e 3000, capito? Guarda, tu c'hai anche l'altezza, è quello, anche quello vince tante volte. Ma infatti, ma io vado con antenna filare, non vado con direttive, perché questa antenna che ho io, anche se è polarizzazione orizzontale, è sempre un'antenna filare, è un dipolo filare, capito? Che copre tutti e quattro i lati, perché è un dipolo fatto apposta, quindi non ho problemi nord e sud, è come una direttiva, però è sempre un dipolo filare. Perciò non è che me ne freghi più di tanto, ma se dovessi mettere qua su una bella direttiva come Dio comanda, vedrai che allora le cose cambiano, però a me spendere 5.000 euro, 6.000 euro per fare un impianto del genere, io che non faccio HF e non me ne affutti nulla di competere con nessuno, a me va bene stare qua e farmi due chiacchiere e divertirmi, allora un altro discorso, perché allora il discorso cambia, allora lì prevale sicuramente sia l'altezza che la direttiva, perché puoi mandarla dove vuoi, capito? Tutto lì, così è Fabri. Sì, è così, capito, però la zona tua è micidiale, che se avessi, li schiacceresti alla grande senza nessun problema, capito? Solo che tu con pochi watt magari riesci a arrivare i segnali, magari su più da loro che ne sono 3, 4, 5 kg, sicuramente sì, faresti molto male. Vabbè, io l'altro giorno, già l'hai sentito, forse mi hai sentito anche tu, che Walter era in Slovacchia, io con la mia antenna ero 9 più 10, mentre Vittorio in postazione con la macchina con 500 watt era 9,20. Quindi vedi bene, io sono andato con 80 watt perché la radio coi watt da piccola quelli, poi il fischio massimo era anche più di 150, però modulati nella 80-90. Per rendere l'idea, capito? Non ho problemi di parlare, io ho fatto dei bellissimi collegamenti anche oltre. i 10.000 km, non ho problemi, però il problema è che ci vogliono le antenne adatte, è inutile che uno abbia le radio e non ha le antenne. Io in questo caso bellissime radio ma antenna non ne ho. Ho un'unica antenna che mi fa, ripeto, 10, 15, 20 e 40, giusto per parlare e per divertirmi, come quella dei Scimitri. Io col diplomo che ho dei Scimitri, che molti rimangono a bocca aperta, arrivo a capo al mondo con un diplomo di 1,75 m, capito? Per i Scimitri, arrivo a capo al mondo. Perché però? Perché è talmente alto che la radiazione del diplomo stesso mi aiuta. Anche quella polarizzazione orizzontale, quindi è direttivo, tutto lì. Se però, ripeto ancora, avessi messo una bella direttiva come Dio comanda, allora il discorso sarebbe ben diverso, capito? Tutto qua. Vediamo Gennaro che cosa ne pensa. Hai capito il discorso, Gennaro? Io ho 40 anni che faccio radio, 40 anni. C'hai una bussola sotto, chiamiamola bussola, è un control box si chiama, capito? Con la bussola tu la metti a nord, la giri e la punti a nord e a quello ti arrivi a fondo scala, non c'è bisogno di gridare. 5.000 euro. Sud-ovest, dove vuoi, a 360 gradi, e lì lavora che una meraviglia, non hai bisogno di stare a voci, vuoi parlare con l'America, la punti in Sud America e parli con Sud America. Guardi, quando il segnale ti arriva più forte e la lasci lì. Qualsiasi tipo di antenne direttive, ci sono bibanda, ci sono quadribanda, ci sono di tutte le maniere che ne vuoi, dipende dai soldi che hai. Anche a parlarci in bici, sono della 27, della 27, guarda, magari 27L dovrebbe costare intorno alle 350 euro, non di più. Ti compri un rotolino alla GBC da 50 euro e tu c'è la direttiva. Che devo comprare un motore? Che devo comprare? Si chiama rotore, il rotore dell'antenna, è un motore che praticamente va messo sotto per consentire all'antenna di girare. E quanto costa? 350 euro per la 27, più 50 euro il motore, cavo di alimentazione e tutto, con 500 euro tu sei già in elicottero. In elicottero? E non la facciamo comprare insieme, con il tuo compagno, Claudio. E cosa vuoi mettere la direttiva della 27? Vuole anche il traliccio. salì un po' verso, io sono, per te dovrei essere boh, nord-est forse, la puntavi un pochino a nord-ovest su Gianni, e a Gianni lo ricevevi molto meglio di come lo ricevi adesso. Grazie a Dio già ne ho spazio. saluti cordialmente e buon continuo a passare, io trovo l'ascolto, ci sentiamo. Ciao Giovanni, ci sentiamo, buonanotte, buonanotte. E anch'io, io sono le 11, ancora 5 minuti e poi spengo. Gennaro! Gennaro! Riprendi, riprendi. Gianni Doppio Roma è andato a dormire. E io fra un po' lo seguo, riprendi. Sabato mattina, la domenica mattina, io vengo a te alla piazza. Hai capito? Non ci vuole niente a montarla, dipende come c'hai il tetto tu. Che tetto c'hai, a tegole o a terrazzo? A tegole. È veramente una direttiva a tegole, fammi capire. Il tubo dove lo metti, tradicio dove lo metti. Thank you. perché non mi interessa, nel senso che ci vogliono un sacco di quattrini e io non ne ho quattrini da buttare nelle antenne. Vado bene così. Non ci sono problemi. Paolo, è difficile per chiamata. Dovuto aprire, buonasera. A Cagliari, del Ministero delle Telecomunicazioni. Hai capito? Ho capito, Fabio. Ma si paga tanto, quanto si paga? Non devi pagare niente, devi pagare le marche da bollo, è la domanda. 70 euro, 50 euro, adesso non mi ricordo. Dopodiché bisogna studiare. Quando l'hai studiato, allora ci vai e puoi dare l'esame. Va bene, signore Pelli, io vi saluto, è già tardi. Dai, Gennaro, mi ha fatto piacere scambiare due chiacchiere. Fammi sapere, informati e poi siamo qua. Buonanotte Gennaro, buonanotte Fabrizio, buonanotte Gianni Opium, buonanotte a tutti. Claudio Spraviero, QRT. Ciao! Buonanotte, ciao, ciao, ciao, Fabio.